Diretta su CRM Happy Wake Up con Patrizia Curreri. Buongiorno, buongiorno cari amici di CRM Happy Radio. Qui con voi Patrizia Curreri, che vi terrà compagnia per un bel po', per circa due ore di questa mattina del 4 febbraio 2013. Sì, questa mattina un po' grigia, un po' così da sopportare un po' lì l'inizio della settimana, quindi dobbiamo un po' faticare ad alzarci, a svegliarci, ecco, anche se magari sembriamo svegli, se ci vedete camminare per strada lunedì mattina, ancora non lo siamo, ancora abbiamo bisogno un po' di energia, di un po' di uno spruzzo di ottimismo per condurre comunque la giornata e iniziare fine settimana in un modo molto diverso e particolare, come magari potremmo farlo ogni settimana. Quindi ci prefiggiamo quindi lo scopo di iniziare una settimana in modo particolare, così che le nostre giornate future siano allo stesso modo originali e non con la solita routine e la solita magari paranoia che ci facciamo, ecco. Ma la nostra mattina è fatta di musica, quella di CRM Happy Wake Up, e quindi come possiamo farlo se non con Our Monsters and Men, Mountain Sound. E ricordo i nostri numeri di telefono per poter interagire con me: potete inviare un sms al 335 56 37 251, o telefonare allo 0921 92 32 92, oppure seguiteci su internet al sito www.crmhappyradio.it. I'm calling in the distance, so I packed my things and ran far away from all the trouble I had caused with my two hands. Alone we traveled on with nothing but a shadow. Some scratches made me wonder about their past, and as I looked around, I began to notice that we were nothing like the rest. Sleep until the sun goes down.

una bellissima canzone romantica, questa di Negramaro con Non Sole. Sì, qua il sole a Cefalù è splendente, a meno tra una nuvola e l'altra, ma lui parla del sole, dell'amore, comunque della persona che si è accanto, e quindi ci vuole anche un po' di romanticismo, come dico io, ci romanticizziamo un poco, ecco, questa mattina del 4 febbraio 2013. E nel mentre comunque la tecnologia va avanti, a scuola un po' rallentata, ma presso il liceo linguistico Manzoni di Milano questo appunto non si può dire. Infatti il futuro sarà, i futuri colloqui tra genitori e insegnanti potranno effettuarsi via Skype, un nuovo passo verso la rivoluzione digitale che ha lo scopo di coinvolgere il mondo della scuola. E sta per compiersi appunto a Milano. I genitori, con il progetto approvato dalla giunta milanese, genitori in video, e rincorrere gli insegnanti alla fine delle lezioni, farsi delle tabelle con gli orari di riferimento dei docenti divisi per i giorni della settimana, prendersi i permessi dal lavoro per andare ad incontrarli, adesso non c'è più da fare appunto tutto ciò, ed ora si potrà dire basta ai salti mortali che devono compiere mamma e papà ogni volta che hanno bisogno di avere un riscontro sull'andamento dei propri ragazzi. Quindi PC, smartphone e tablet vengono in loro aiuto, facendo in modo che possano incontrare gli insegnanti anche stando comodamente seduti sulla poltrona del loro ufficio durante la pausa pranzo. Quindi davvero un'idea geniale, e quindi chissà se questo progetto sarà approvato anche in altre scuole, anche se però il contatto fisico ci vuole sempre. Feeling young, we will never ever come down. They will try with all their might, they can't buy what we have tonight. Falling, falling, fall in love, we will never ever come down. So high, so high, so young. buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Just like money, never had to afford me. Now I'm sick and tired. You just take it right, knowing I forgive you. You ain't here for dinner, like I'm a beginner. I loved you for your inner. And the next guy is out there somewhere, but you won't dare. Cause you're too scared. Have you ever need someone so bad, but he ain't willing to make it last? Sometimes you gotta lose to win again. If it makes you cry, and all you do is fight, can't get no sleep. Sorry, all you did was worry. You didn't want nobody. Thought it would get better, but it's fallen more. Oh, it's fallen more ever. I just hope that we would, cause you're always up to no good. Maybe it'll take someone else. Show me better. Fantasia, Loso to Win, CRM, Happy Wake Up. Ricordo ancora i nostri numeri di telefono per poter interagire con me. Potete inviare un sms al 335-5637-251, telefonare allo 0921-923292, oppure collegatevi sul sito www.crmfiradio.it, dove potete vederci in streaming e magari anche lì richiedere la vostra musica preferita. Ricordo ancora che stasera a mezzanotte ci sarà la replica del programma, come anche di tutti i programmi della giornata, ancora prima, e poi a mezzanotte quella di CRM Happy Wake Up, e poi potete riascoltare la puntata ancora una volta in podcast sul sito, appunto, sempre www.crmhappyradio.it. quindi avete tanti modi per stare a contatto con noi, con la nostra radio, la nostra musica e le nostre notizie, che sempre arrivano più strampalate ma sempre comunque leggere, appunto, che ci fanno passare un po' la mattinata diversa. Ecco, adesso il sole se n'è andato, c'è un po' di tempo nuvoloso, però devo dire che gli italiani, come anche gli inglesi, stanno appassionando sempre di più alle condizioni del tempo, quindi anche aggiornamenti sui smartphone, oppure anche consultazioni su internet, fanno in modo che comunque noi italiani

questi erano gli Electric Guest, This Head I All, CRM Happy Wake Up. E come sempre ricordo ancora i nostri numeri di telefono per poter interagire con me, potete inviare un sms al 335 5637 251 o telefonare allo 0921 92 32 92. Inoltre ricordo, appunto perché siamo già in atmosfera di carnevale, che ancora siete in tempo per iscrivere i vostri bambini alla 10ª edizione del Coriandolo d'Oro, appunto organizzato dalla nostra radio, e sarà appunto, si svolgerà domenica 10 febbraio alle ore 10 appunto al Sea Palace, un momento appunto per festeggiare con i vostri bambini anche mascherati appunto questa bellissima festa, un po' dico io liberatoria, ecco, e non so, si... uno fantastica per come travestirsi, per come divertirsi senza farsi notare. Ecco, questo quindi è un po' di c'è un punto, una fase liberatoria secondo me in questa festa di carnevale, e anche di mangiare. Appunto si pensa sempre alle feste, si pensa sempre a mangiare. E il dolce tipico di carnevale qual è se non le chiacchiere? Ecco, il nome deriva forse dal, si pensa, alcuni pensano che derivi dal proprio dalle diverse forme con cui la sfoglia di pasta viene tagliata, altri invece l'attribuiscono alle sue origini antiche. Infatti si pensa che l'origine delle chiacchiere è da ricercarsi nell'antichità. Si racconta che durante le liberalia, feste romane in onore di divinità protettrici della fecondità rurale, le donne anziane col capo cinto d'edera vendevano per strada una sorta di pizzette dolci fritte con miele da offrire agli dèi. Pare fossero questi parenti alla lontana delle frictilia, dolci fritti nel grasso di miele, di maiale, e che gli antichi romani gradivano consumare proprio in periodi di festa come questa, ad esempio in onore dei Saturnali, festività corrispondente all'odierno carnevale. Durante i festeggiamenti venivano distribuite alla folla che in massa si riversava per le strade. Grazie alla facilità della loro preparazione era possibile cuocerne in grandi quantità e in breve tempo, dato che dovevano durare per tutto il periodo della Quaresima, non dovevano lasciare nessuno a bocca asciutta. Quindi vedete un po' queste origini di questo dolce, appunto molto molto semplice, molto molto buono, soprattutto quello ricoperto da cioccolato. Cioè ora ci sono tutte le varianti possibili immaginabili che a quest'ora della mattina fanno venire molta ma molta fame. Ecco, guarda, se non parliamo più, parliamo della nostra musica. E questa che arriva è Kesha, Die Young. Dai, muovetevi, svegliatevi a CRM Happy Wake Up. That magic in your pants, it's making me blush. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Questa era Madonna, Turn Up the Radio, a CRM Happy Wake Up. Ecco, voi vi certe volte pensate magari come si vede se una persona è aggressiva o perlomeno tale. Ecco che la grafologia ci viene in aiuto. Ecco, se le fate scrivere alla vostra lei o alla vostra lui è stata una bella giornata, osservate la T. Se questa T è fatta simile a dei lacci che hanno un prolungamento verso destra, ecco, questa è una persona aggressiva, ma non lo fa notare. Sono l'uomo più semplice che c'è, sono l'uomo giusto per te. Sono l'uomo di questa sera, sono l'uomo di primavera. Facciamo bene a stare insieme stasera, facciamo bene perché è sabato sera. Facciamo bene, facciamo perché c'è l'occasione e l'atmosfera. Sì, facciamo bene perché

baby. I said I'd get rich or die trying. I did it, good luck, sucker, trying to stop my shine. Nothing matters but the music. Music my first love. With paper chasing, I'm always coming in first, cause I'm built for it, see I'm better under pressure. I react like a maniac when I'm coming to get you. I got the win, and watching, Dre watching, my son watching. That losing ain't an option, I'm sharp, I'm on point. Thank for my 4 point, pulling out my pain. I'm back on my A game, I'm focused. For me, this is just another victory. Except that I'm stronger than the ops now, mentally. How do people say? Questa è 50 Cent con Alicia Keys, New Day. Ecco, questo è un nuovo giorno che inizia oggi lunedì 4 febbraio 2013. Abbiamo detto appunto all'inizio che, essendo appunto l'inizio della settimana, certo si è un po' più sofferto come risveglio e come inizio appunto lavorativo. Ecco, però una ricerca ci viene un aiuto per vivere appunto i giorni della settimana in modo molto diverso, appunto perché il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, venerdì, sabato e domenica viviamo appunto questi giorni in maniera diversa l'uno dall'altro. Però non troviamo mai un momento, magari questo appunto lo afferma la ricerca della London School of Economics, è pubblicato appunto sul sito di Psychology Today, e che non si trova mai tempo per trovare un'intimità, quel rapporto appunto intimo tra l'uomo, tra il marito e la moglie, comunque tra due partner. Ecco, e quindi sì, questo il momento migliore è forse il giovedì, appunto perché il lunedì è la settimana può cominciare liberandoci dallo stress. Quindi iniziamo il lunedì e liberandoci dallo stress, già iniziamo con questo presupposto. Sembrerebbe che dopo i bagordi del weekend saremmo più passibili di attacchi di cuore, con un aumento del 20% delle possibilità di avere un infarto. Bene, non è, cioè speriamo di no, però bisogna concentrarsi su noi stessi, rilassarci e affrontare questa giornata in maniera tranquilla. Il corpo avrà le capacità di espellere tossine e stress. Quindi oggi, ragazzi in ascolto, persone, adulti, piccoli e grandi, dovete rilassarvi, dovete iniziare la mattina con questo, prefiggendovi questo scopo. Poi domani, cioè martedì, è la giornata ideale per concludere affari in sospeso e più in generale per essere produttivi al massimo. In ufficio efficienza totale, smaltiamo tutto il pregresso e magari il nostro capo si accorgerà ancora meglio delle nostre grandi potenzialità. Quindi il martedì è il giorno migliore per fare bene al lavoro. Poi c'è il mercoledì, perché non è una giornata buona per rilassarci con il nostro partner, perché si è liberi di fare ciò che vogliamo compatibilmente con nostri impegni ancora lavorativi. Al limite mercoledì è adatto come giorno di ferie, possiamo prenderci quel giorno di ferie appunto il mercoledì, però dedicandoci ancora a noi stessi, alle cose che ci piace fare o a quelle che non riusciamo mai a fare perché troppo oberati. Ecco giovedì è poi dico giorno quello per dedicare al nostro lui, alla nostra lei, perché il desiderio sessuale raggiunge le sue vette più alte, soprattutto nelle prime ore del mattino appunto si può raggiungere quel desiderio che si ha. E quindi il come e perché di questo risultato dello studio non si sa, forse appunto perché c'è l'avvicinarsi del fine settimana che aiuta un po' l'inconscio a stare meglio, e così il rapporto intimo ne trova giovamento e la performance sarebbero ottime non solo nel talamo ma anche a livello lavorativo. Quindi vedete un po' quello che viene fuori da questo studio. Poi c'è il venerdì, è un vecchio detto popolare, recita: di Venere e di Marte non si sposa né si parte, né si dà inizio all'arte. Tuttavia secondo gli studiosi inglesi questo è il giorno in cui smettere di fumare. Abbastanza strano, abbastanza particolare, però ci crediamo. Boh, comunque se i fumatori vogliono provarci, ecco, devono iniziare di sabato e poi magari ci fanno sapere qua noi di CRM Happy Wake Up. Poi c'è sabato inizia il tanto agognato weekend, ci si riposa, ci si svaga e ci si cede agli eccessi, soprattutto quelli alcolici, e quindi si dà sfogo un po' alle nostre frustrazioni, specialmente con gli amici della settimana appena trascorsa, un bicchiere tira l'altro e facciamo. Però attenzione. Poi la domenica

your life you slipped away. Erano i Muse con Follow Me, Follow Me, seguiamoli questi Muse, questo gruppo veramente bravo, è sempre con canzoni appunto di successo. È il successo appunto quello che è arrivato all'Ascari, alla palestra Bushido, e dove alla gara del Grand Prix di Sicilia dei Katà a Messina hanno vinto il secondo posto Nino Papa, che è passato alle nazionali, e terzo posto a Rita Miriam Ferru. Quindi tantissimi complimenti da noi di CRM Happy Wake Up, che seguiamo costantemente appunto queste bellissime gare appunto che si svolgono di karate in tutta la Sicilia, e quindi sono appunto i katà, i kumite e così via. Questa qua era appunto dei katà, e quindi complimentoni a questi grandi e piccoli ragazzi della Bushido Lascari ancora. E quindi noi li celebriamo con Mika, Celebrate. Everyone says now or never. I say oh, never. manager at all. But I want the whole world to celebrate. Yeah. Right about now, it's time for everybody to stand up, stand up, stand up, and have fun, fun, 'cause we just begun. I want the whole world to celebrate. Once again, I got better, and I put myself together. I remember those two letters, it will be okay. Everyone says now or never, I say only if it's better. Being out like this forever, I wanna come home. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Fuggiti dal frastuono di un locale, abbiamo urlato al cielo sopra un luna park, e ridere da stare male. In paradiso abbiamo fatto l'amore, ti ho guardata tra le luci della città, chissà per quanto tempo, perché tu sei bellissima. In questa notte, in questa notte, baciami forte, baciami anche se piove. Nessun vento temporale disperderci potrà. Siamo io e te in questa notte. Prenderemo il primo aereo, chissà dove andrà. Dormiremo stretti in tutte le città, e sogneremo di fare l'amore. Ci sveglieremo per farlo davvero, ma intanto è questa notte a volare via. Tu non lasciarmi adesso, ti prego resta ancora un po'. In questa notte, questa notte, baciami forte, baciami prima di andare. E leggo nei tuoi occhi quello che io sto pensando. Non può finire tutto così, e non finirà in questa notte. Baciami forte, baciami prima di andare. Resterò a guardarti mentre ti allontanerai, e non saprò se mai ti rivedrò. Di andare, e resto ancora un po' a guardarti mentre ti allontani, mentre vai via, vai via da me, mentre vai via in questa notte. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. superstar, a work of art is electricity. You're a yes in a world of no's. You're the Beatles to my Stones. It's a sweet romance, a spotlight dance. Girl, you shake me into my bones. But every now and then I'll start to slip away. I gotta hear you say, take me. Trionfa anche per Daniel Power con Cupid. Cupido sempre appunto lì a intrecciare rapporti amorosi tra le persone. E inoltre, parlando un po' della crisi, sempre viene sempre come protagonista nelle nostre discussioni, appunto perché è un tema molto discusso ora, soprattutto con queste elezioni amministrative, le elezioni nazionali. E però c'è qualcuno che è veramente stato pizzicato dalla fortuna, una giovane 21enne di Livorno che ora ha come datore di lavoro Lady Gaga. E infatti questa ragazza studia graphic design e, come milioni di altre ragazze della sua età, ha una passione sfrenata per la musica della poliedrica artista newyorkese. Questi due ingredienti non sarebbero bastati se la nostra connazionale non avesse avuto il talento e la passione necessarie ad emergere dalla massa. Maddalena ha spiegato così la sua avventura. Appunto, la pop star ha chiesto alle studentesse della Libera Accademia di Belle Arti di Firenze di partecipare a un progetto grafico in previsione del suo imminente tour americano. E Maddalena è stata una tra le più brave, è quella che è emersa appunto dalla massa, e il resto appunto è il merito è stato del fato, perché una stretta collaboratrice di Lady Gaga viene a conoscenza delle opere di Maddalena tramite un amico comune e la commenta positivamente. Fra i due nasce un rapporto epistolare che poi sfocia in una vera e propria offerta di lavoro, e così ad alloggi a domani Maddalena si trova ad avere Lady Gaga come datore di lavoro. e mi sono state chieste immagini che richiamassero lo stile gypsy anni 70 con riferimenti hippie. Il soggetto doveva essere una Lady Gaga trasfigurata, una figura che ricordasse lei ma non le somigliasse esattamente, cosa che si fa, che fa parte del suo modo di lavorare. Mi piace ritrarre musicisti, dice la Maddalena, ma più che alla vera somiglianza cerco di riportare sulla carta il loro messaggio, ciò che sono dentro. Per Maddalena quindi si tratta dell'occasione della vita, non capita tutti i giorni appunto di lavorare con una delle cantanti più seguite al mondo. E adesso ascoltiamo un brano della poliedrica cantante Lady Gaga, Bad Romance. RM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Just begun. She can be your Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Era Cristina Aguilera con Your Body a CRM Happy Wake Up. Siete sempre in collegamento con me, con Patrizia Curreri, e ricordo ancora i nostri numeri di telefono per poter interagire con me. Potete appunto richiedere la vostra musica o no, oppure raccontarcela un po' come dico io. Ecco, potete mandare un sms al 335 5637 251, o telefonare allo 0921 92 32 92, oppure potete seguirci in streaming al sito www.crmhappyradio.it, oppure potete richiederci anche la vostra musica anche da Facebook cercando tra i vostri contatti CRM Happy Radio. Quindi saluto ancora tutti coloro che si sono collegati adesso o comunque stanno ascoltando e stanno interagendo anche con me tramite Facebook, e mi dicevano anche che naturalmente avevo citato all'inizio le chiacchiere, bene, l'origine del nome, però non ho detto la ricetta, ecco perché ho fatto l'anguarina un po' a tutti. Ed ecco, adesso potete, è molto semplice la ricetta, posso prepararlo pure io a casa, quindi figuratevi voi che sono un po' io sbadata, e quindi è molto semplice. E poi c'è la variante con la ricoperto di, appunto, le chiacchiere ricoperte di cioccolato, oppure fatte di cioccolato stesso. La ricetta base è 400 g di farina, 3 uova, 50 g di zucchero, 50 g di burro, mezzo bicchierino di liquore, un pizzico di sale, zucchero a velo, buccia di mezzo limone grattugiata, olio d'oliva e una tavoletta di cioccolato fondente, perché più appunto piace la variante con le chiacchiere ricoperte di cioccolato fondente. Il procedimento, appunto, è abbastanza semplice: impastare farina, burro, zucchero, uova, liquore, sale e la buccia di limone con le mani. Una volta l'impasto liscio e compatto, lasciarlo riposare per circa 30 minuti. Quindi si stende la pasta a un'altezza minima di 1 mm. Mi raccomando, misurate bene, perché è importante pure quanto sia l'altezza della pasta. E poi con una rotella liscia o zigrinata, appunto, tagliate la pasta, e si ritagliano dei rettangoli di grandezza variabile, quindi scegliete voi un po' come volete, appunto, queste chiacchiere. La pasta va comunque fritta in olio caldo, oppure c'è la variante, appunto, della chiacchiera cotta al forno, e una volta raffreddata le frappe vanno ricoperte di cioccolato fondente sciolto a bagnomaria. Oppure l'alternativa è utilizzare del cacao amaro in polvere e versarlo sull'impasto, diminuendo di 100 g la farina e aggiungendo al suo posto 100 g di cioccolato. Quindi vedete un po' la langurina in bocca, penso che sta aumentando. Dai, tra un po' magari siete uscite, andate a comprare un po' di chiacchiere se non avete il tempo di farle a casa, e così vi gustate questo bellissimo dolce di carnevale. Ricordo ancora per chi appunto si fosse collegata adesso, che sono ancora aperte le iscrizioni per il coriandolo d'oro dedicato a tutti i bimbi di Cefalù e non solo, e che è il 10 febbraio alle 10 al Sea Palace. Quindi ci saranno Alessia Ardulino e Santi Genovesi, che è appunto insieme al guest star da Italia's Got Talent Pierangelo Gullo. Quindi tanto divertimento e tanti premi per la maschera più bella, ma anche un premio per tutti i bambini iscritti. Come si fa a iscriversi? Basta andare nei nostri sponsor Bazar Maugeri, Brocato Giocattoli, Giocheria ed è in festa. Andate lì e iscrivete i vostri bimbi, che si divertiranno tanto in questa bellissima mattina. Poi vi diremo anche gli altri appuntamenti per il carnevale a Cefalù, che veramente sono veramente ricco. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. There was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world, I thought I'd never lose her out of sight. We were so young, I think over now and then. I still hear the songs, remind me of a friend.

di chiacchiere, di dolci appunto carnevaleschi e anche appunto animazione per tutti i grandi e piccoli. Poi domenica, come ricordavo poc'anzi, appunto alle 10 inizia il Coriandolo d'Oro. Siamo arrivati appunto alla 10ª edizione al Sea Palace con Santi Genovesi ed Essi Arduino, che animeranno appunto la mattina con tanti bimbi e tutti mascherati. Cioè, ci sarà appunto il premio per la maschera più bella, ma saranno appunto premiati tutti i bimbi partecipanti. Poi dopo al Sea Palace a mezzogiorno ci spostiamo tutti sul corso e sulla nazionale Mirama, dove partiranno appunto la sfilata delle auto d'epoca Maggiolini Palermo Club, con tutti quelli dentro le macchine travestiti da personaggi anni 70. Di pomeriggio alle 16:30 c'è la sfilata Miseria e Nobiltà, organizzata da Angela Macoluso e lo stilista cefaludese Francesco Limberto. E quindi partirà dall'hotel Artemis, quindi avremo tutta la nazionale piena di abiti d'epoca, quindi bellissima idea, eccezionale. E poi alle 19, nel mentre c'è la sfilata, poi c'è lo spettacolo teatrale nel Teatro Cicero e le favole di Esopo, sempre a cura dell'associazione Officine Culturali Costanza d'Altavilla. E mentre alle 20 nella piazza Bagni Cicerone ci sarà degustazione animazione, e sempre appunto organizzato dall'associazione. Lunedì 11 febbraio invece questa degustazione animazione si sposterà al GV Center, quindi anche lì ci sarà grande festa e grande divertimento, sempre a cura dell'associazione Officine Culturali Costanza d'Altavilla. Mentre martedì 12 febbraio la festa si sposterà in corso Ruggero. E infine alle 16:30 ci sarà la sfilata di carnevale, raduno in via Roma, quindi durerà fino alle 22, quindi grande festa a Cefalù. E quindi ci sarà anche la sfilata appunto del cappellaio malto, quindi mettetevi lì a fare qualche cappello particolare, strano, magari in base alla vostra creatività, le vostre idee più bizzarre, e sfilate con noi alle ore 16:30 martedì 12, e quindi potete vincere appunto dei bellissimi premi, magari per il cappello e anche magari annessa anche la maschera più bella. Quindi venite a Cefalù, venite a divertirvi qua con il Carnevale Chiacchiera Fest 2013. E adesso The Lumineers, oh hey! I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong to you. You belong to me, my sweetheart. I belong to you. You belong to me, my Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Let's get it started. in here. And the bass keeps running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. To lose our inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, come on. Get it started, come on. Get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Yeah. Lose control, a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's will do it. Get started. Get stupid, don't worry about it. People will walk you through it step by step like an infant new kid, inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started, get started, get started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started. Drill. Just lose your mind.